Agosto, tecniche di sopravvivenza di Morena Rossi. Buongiorno, giovedì 12 agosto, terza ed ultima puntata dedicata all'agosto in città. Quali sono le vostre tecniche di sopravvivenza per godervi la città nel mese di agosto? Una città che, come si diceva, non è più così vuota, non è più la città deserta che ci si ricordava anni fa, ma comunque c'è meno gente in giro, ci sono meno auto per strada e in metropolitana anche gli indecisi hanno vita facile. Sapete, quelli che appena fuori dalla porta del vagone si fermano per capire dove devono andare, che durante l'anno vengono travolti dalla fiumana di gente che vuole andare in ufficio. Adesso invece vengono semplicemente aggirati, quindi è vita facile per tutti in agosto. E noi siamo qui per darvi le tecniche di sopravvivenza per vivere al meglio la città, per vivere al meglio la vostra permanenza in città, lontano dai luoghi di villeggiatura classici, quindi se non siete al mare, se non siete andati in montagna, come fare a trasformare il fatto di essere rimasti a casa in un'occasione. E oggi parliamo dell'occasione di vedere magari mostre, musei, di riscoprire la città con occhi diversi, di vedere palazzi o strade che durante il resto dell'anno magari nemmeno ci accorgiamo che esistano nella nostra città. Quindi oggi si parla di vacanze intelligenti nella propria città. Namo, pronta, Anna. Ale, cosa ne stati qua tutta quest'anno che non avevo visto per niente a Ostia? Di agosto quest'anno abbiamo fatto delle vacanze intelligenti. E che te? Che te? E come che te? Concerti, biennale, musei, opere d'arte. Tu non mi puoi capire, sei troppo ignorante. Ma io faccio tua, se l'ha capito te lo posso capire pure. No, ne, tu non lo puoi capire. Ma perché? Ma perché non ho capito manco io? Ma riportarci tu, ma adesso la paura, perché credevo che eri diventato l'occhio anziano per te. Sta tranquillo, dottore, che se al mondo diventassimo tutti scienziati, le casse qui ai mercati, chi scarica più? Comunque una volta ci siamo provati. Ti provo pure io. Una volta ci si può provare e voi ci proverete quest'anno? Raccontateci quanto sono intelligenti le vostre vacanze passate in città chiamandoci all'800 24 00 24 oppure i vostri messaggi al 349 238 6666. Sì, capita di scoprire degli angoli nuovi delle proprie città proprio in agosto, magari perché è il mese ideale in cui appunto c'è meno gente in giro, camminare per le strade magari guardando in alto e non guardando per terra, cercando di non calpestare i piedi di quelli che ci stanno davanti perché abbiamo fretta. Quindi raccontateci le vostre vacanze intelligenti chiamandoci all'800 24 00 24 oppure se avete delle mostre nella vostra città, dei musei che vale la pena di vedere e volete parlarne con noi, mandate anche i vostri messaggi al 349 238 6666. Oggi più tardi, anche oggi avremo con noi un ospite per bere il caffè in radio insieme a noi e per raccontarci del suo agosto in città. Abbiamo un'ascoltatrice che si è prenotata per essere qui e parlarci appunto di come trasforma in un'occasione l'agosto in città, in un'occasione per viverla in maniera diversa, ma ne parleremo più tardi. Molti dei messaggi che sono arrivati anche ieri erano proprio relativamente a questo, alla città che quando è vuota, quando c'è meno gente, si può vivere in maniera diversa e ce la si può godere. Quindi agosto è il mese giusto per riappropriarsi in un certo senso della propria città, magari portando in vita anche i giochi della psicogeografia degli anni 60, quella per decostruire lo spazio metropolitano e quindi camminare per strada senza un orario, senza una meta e scegliendo magari un percorso solo in base a ciò che si incontra, ai dettagli che si vedono per strada e non in base a ciò che si sa di quel luogo. È un modo per far emergere la città invisibile che è dentro in ognuno di noi, quella città che è fatta di tutte le altre città che abbiamo visitato nella nostra vita e che si ricompone nella nostra mente per differenza. E a proposito di città invisibili, come scrive Italo Calvino, ogni città riceve la sua forma dal deserto cui si oppone. E oggi noi vogliamo costruire la vostra città opponendovi al deserto di questo agosto. E per farlo vogliamo partire idealmente per un viaggio nelle città d'Italia, magari per vedere che cosa c'è da scoprire, quali sono le mostre, i musei, insomma, è un po' come se partissimo con voi in cerca di arte, architettura, musei, mostre. Mona Lisa, Lisa, Lisa, Mona Lisa, Mona Lisa, Lisa, Mona Lisa, Mona Lisa, Lisa, Mona Lisa. Agosto, tecniche di sopravvivenza. Oggi si parla dell'agosto in città e di come trasformare il fatto di essere rimasti a casa in un'occasione per visitare dei musei, per fare insomma una vacanza intelligente. Voi che cosa state facendo? Avete in programma di andare a vedere qualcosa? Scrivetecelo al 349 238 6666 oppure chiamateci per raccontarci la vostra esperienza di vacanza intelligente in qualche città, che se non è quella di quest'anno magari è stata quella di qualche anno fa, all'800 24 00 24. I musei italiani fra l'altro sembrano tornati di gran moda, i visitatori sono aumentati del 12,2% rispetto al 2009, quindi stiamo parlando proprio di una cosa che è abbastanza attuale, quindi andare a vedere delle mostre, andare in giro per musei in un mese in cui magari si ha più tempo per farlo. Ma il nostro viaggio ideale che vogliamo fare insieme a voi nelle città d'Italia, vogliamo farlo partire dalla città in cui ci troviamo adesso noi di Radio 24. Milano vicino all'Europa, Milano che banche, che cambi, Milano gambe aperte, Milano che ride, si diverte. E ci si può divertire anche con musei e mostre a Milano. Per esempio, la Triennale di Milano e il Triennale Design Museum sono aperti al pubblico per tutto agosto, anche la domenica di Ferragosto. Per informazioni www.triennaledesignmuseum.it. E sempre a Milano, Notti Magiche è il nome di un programma di incontri che si tengono fino al 30 di settembre al Castello. Il martedì e il mercoledì si visitano le Merlate, una lunga passeggiata di 2 ore che unisce storia, architettura e questi panorami incredibili sulla città di Milano. Mentre il giovedì e il venerdì ci sono le visite ai sotterranei, che sono disposti a ferro di cavallo sul retro della fortezza verso il Parco Sempione. Per informazioni e prenotazioni www.adartem.it. Ma per vedere e scoprire la città di Milano, come non l'avete mai fatto prima, è arrivata anche una guida che si chiama Milano Diamante, dove il visitatore diventa il protagonista di una storia, quindi si entra proprio dentro la città di Milano. E oggi ne parliamo con chi ha scritto questa storia, ed è Paolo Roversi, definito il golden boy del giallo italiano. Il suo ultimo libro è Cane mangia cane. Ciao Paolo! Ciao a tutti, buongiorno! Ciao, buongiorno! Allora, raccontaci un po' dei tuoi agosti milanesi. Io da quando vivo a Milano, io sono originario di Mantova, vivo a Milano da 10 anni, ogni agosto preferisco rimanere in città perché è il mese migliore per godersela, perché non è vuota, trovi parcheggio, i supermercati sono aperti, hai tutto quello che desideri, non c'è la solita calca e quindi te la puoi proprio godere. Certo, è una città da scoprire quindi. Sì, una città da scoprire e tra l'altro l'anno scorso, proprio di questi tempi, a Ferragosto, le mie date topiche sono state il 15 e il 16 di agosto dell'anno scorso, per le ricerche di quella che è diventata la mia guida, no? In cui si parla di, ci sono 45 storie ambientate in 45 luoghi di Milano, e quindi io in quel weekend a piedi per le vie di Milano ho fatto tutti i sopralluoghi, ho tratto gli spunti, quindi immagino un turista che, o anche un milanese, perché di Milano, pur vivendoci da tanto, ho scoperto delle cose inimmaginabili. Certo, immagino. Perché alla fine, durante il resto dell'anno, noi viviamo la città in un certo modo, no? Usciamo, prendiamo la metro o i mezzi, arriviamo dove dobbiamo arrivare e torniamo indietro, sempre di fretta, senza magari neanche alzare gli occhi per vedere i palazzi che ci stanno intorno. Ecco, in agosto questa possibilità ce l'abbiamo. Fantastico, ma io ho dato uno sguardo alla tua guida, che è veramente bellissima. Ho visto che ci sono due possibilità, c'è la possibilità sofà o la possibilità turista. Raccontami un po' questa cosa, cioè ci si può mettere a visitare Milano anche se si sta comodamente su un divano? Sì, beh, naturalmente io consiglio di vederla dal vivo, è più bella, secondo me è divertente. Ci sono chiaro, due possibilità, però se proprio devo spendermi direi che è meglio fare quella. Questa guida non è la classica guida, è anche un'esperienza, è anche un romanzo, è anche una caccia al tesoro, e mi spiego meglio. Ogni persona che l'acquista è invitata a portarsi in un luogo della città, ad aprirla e a mandare un sms e dire: mi trovo qui, calcolami un percorso attraverso tre possibilità, non so, la lirica, la cultura o la moda, mm-hmm, perché Milano è famosa per queste tre cose. E quindi il cervellone elettronico gli manda un messaggio e dice: va bene, la tua avventura comincia, leggi questa storia e comincia a scoprire la città e i suoi segreti, perché la cosa bella è che c'è anche un enigma che ti viene mandato via SMS da risolvere per arrivare alla tappa successiva, no? Da buon giallista. Sì, quindi è anche una sorta di caccia al tesoro. Bellissimo. L'idea, siccome essendo io giallista, è partita da un mistero, no? Si chiama Milano Diamante perché viene rubato un famoso diamante che si dice appartenesse a Ludovico il Moro, e tu giocatore, lettore, alle prese con un burbero ispettore di polizia, ti fa scoprire Milano e ci mettiamo alla ricerca di questo diamante scomparso, no? E ti fai il tuo percorso, quindi, sulla base anche di quello che ti piace di più, mi sembra di capire, no? Se ti piace di più la lirica, io, appunto. Sì, sono storie di mistero, cioè i luoghi scelti sono magari luoghi famosi, ma di cui ti racconto delle cose particolari. Ad esempio del Duomo di Milano. Uh-huh. Se quando arrivi in Piazza Duomo non ti parlo delle guglie, non ti parlo di quanti capitelli ci sono, per dirti, ma è di un mistero che c'è nel Duomo, ad esempio della dama nera che appare nelle foto. Uh-huh. In due minuti te la dico. Per i neosposini, che si dice, vanno in Duomo e si sposano, si fotografano lì davanti, nell'immagine appare questa dama in nero, che è una sposa che si dice infesti le guglie del Duomo. Poi ci ha spiegato una storia del perché. Oppure in via Torino c'è una stradina che si chiama la Stretta Bagnera, dove alla fine dell'Ottocento c'era questo Jack lo Squartatore de Noartri, perché prima di Jack lo Squartatore avevamo i diritti della Stretta Bagnera, e quindi racconto quei misteri. Della Scala ti parlo del Punto Callas, ti parlo non di quanti si sono avvicendati sul suo palcoscenico, ma dei misteri o delle curiosità particolari. Beh, bellissimo, un bel modo di vedere Milano. E questo agosto cosa farai? Sarai in città anche questo agosto? Questo agosto sto scrivendo il prossimo romanzo che uscirà dell'anno nuovo. Mm-hmm. E quindi mi godo la città, faccio le mie ricerche e scrivo in tranquillità. Ecco. Certo, quindi le tue tecniche di sopravvivenza per l'agosto in città è scrivere, mi sembra di capire. Sì, è scrivere, ma anche uscire molto di più rispetto al solito, perché comunque non sei più obbligato a dover a rispettare i ritmi degli altri, nel senso che puoi uscire quando vuoi, trovi parcheggio, vai dove vuoi, i ristoranti sono aperti, i supermercati sono aperti, quindi sei anche più libero rispetto al solito. Ecco. Fantastico, grazie mille Paolo. Grazie a voi. Ciao. Grazie. 800 24 00 24 per raccontarci delle vostre vacanze intelligenti. Allora, la guida diamante di cui abbiamo parlato prima c'è anche per chi fosse interessato su Venezia, Firenze, Verona e Roma. Ma torniamo a Milano. Per chi è a Milano o può raggiungere Milano facilmente, ci sono anche delle mostre molto interessanti, mostre fotografiche da andare a vedere. E ne parliamo con il vicepresidente di Fondazione Forma, Dennis Curti. Ciao Dennis. Ciao Morena. Ciao. Grazie. Ciao. Allora, per chi è rimasto a Milano, che cosa ci propone lo spazio Forma in agosto? Dunque, intanto Forma rimane aperto tutti i giorni di agosto, tra agosto compreso, ma facciamo un'apertura speciale per l'estate, apriamo alle 11 del mattino e chiudiamo alle 9 di sera, mentre il giovedì e il venerdì addirittura chiudiamo alle 23, proprio questo per consentire anche così alle persone che lavorano e che vogliono magari andare a visitare una mostra dopo cena, lo possono fare tranquillamente. Certo. E le due mostre che abbiamo in programma, che sono sul tema del ritratto, dedicate a Erwin Olaf e a Phil Stern, durano fino al 12 settembre. Mm-hmm. Ma ci sono per esempio dei visitatori diversi? Allora, notate che c'è un pubblico diverso in agosto rispetto al resto dell'anno? Ma devo dire che Forma registra un pubblico che cambia spesso a seconda della mostra che proponiamo e del tipo di fotografo, di artista che è in mostra. Sicuramente in agosto è un pubblico curioso, un pubblico certamente di nicchia che viene a Forma sicuramente per visitare le mostre fotografiche, ma anche per poter fare magari un giro nella libreria che è aperta con gli stessi orari della mostra e che è una libreria molto forte, una libreria che cerca di approfondire ogni volta, una libreria che cambia un po' il profilo, che cambia i contenuti a seconda della mostra. Questa di Erwin Olaf e di Phil Stern è una mostra dedicata al ritratto, per cui la libreria, pur mantenendo fissi tutti i titoli della grande fotografia, dei grandi fotografi, fa un po' il punto sul tema del ritratto. E poi è probabilmente un visitatore che ha piacere così per di stare a forma, per trascorrere qualche ora in armonia, anche perché c'è aperto un ristorante e un bar, fantastico, sì. Tutti i giorni, che segue praticamente gli orari della mostra, e quindi è possibile, come dire, prendersi una bibita o un aperitivo nel terrazzo al primo piano di forma, oppure fermarsi a pranzare prima o dopo di aver visitato la mostra. Benissimo, grazie mille allora Dennis per le informazioni. Ciao. Ciao, ciao. Agosto, tecniche di sopravvivenza. Stiamo parlando di vacanze intelligenti in città. 800 24 00 24 per raccontarcele, o i vostri messaggi al 349 238 6666. William mi scrive: buongiorno Morena, ti scrivo da Ascoli Piceno, la città del mio agosto, la mia città museo. Contava nel Medioevo oltre 100 torri, dove camminare tra palazzi, piazze e chiese ti fa tornare indietro nella storia. Quindi la vacanza in città è come un viaggio nella macchina del tempo. Parliamo di questo, di vacanze intelligenti, e stiamo facendo con voi un viaggio ideale, virtuale, in questa Italia. Abbiamo adesso visto Milano, ma ci spostiamo un po' più a nord-ovest. Torino non è soltanto un nome. Torino è un grande coro di persone. Vuol dire Napoli che fa in montagna. Torino è un dirigibile verso la Spagna. A Torino, alla Mole Antonelliana, fino al 19 di settembre c'è Rebels, Marlon Brando e Anthony Quinn, fotografati da Sam Shaw. Per informazioni 011 8138 560. Oppure, fino al 29 agosto, The Museum of Everything, alla Pinacoteca Agnelli, in via Nizza 230, il museo di ogni cosa. Ma adesso scendiamo un po' più in giù. Bologna, una vecchia signora, dai fianchi un po' molli, col seno sul piano padano, per il culo sui colli. Bologna, Mambo, Museo d'Arte Moderna di Bologna. C'è Francesco Iodice con City Sellers fino al 26 di settembre, in via Don Minzoni 14. Telefono 051 64 96 611. Ma adesso spostiamoci ancora un po' più a sud. Roma, fino al 14 di novembre è in mostra La Dolce Vita, a cura di Marco Panella. Sono 100 foto selezionate dall'archivio Luce e 100 rotocalchi della fine degli anni 50 per formare un racconto per immagini dell'omonimo capolavoro di Fellini. Per informazioni www.mercatiditraiano.it. Oppure Macro Wall, 80s are back, rilettura dell'arte italiana degli anni 80 attraverso mostre personali di 10 artisti rappresentativi. Per informazioni 06 06 08. E adesso ci fermiamo un po' per la borsa. Agosto, tecniche di sopravvivenza. Agosto, tecniche di sopravvivenza. Oggi stiamo parlando dell'agosto in città e della città dell'agosto come occasione per visitare la città con nuovi occhi, per visitare mostre, vedere musei. E abbiamo con noi, come anticipato prima, anche la nostra ascoltatrice, che è venuta a raccontarci la sua esperienza della sua città d'agosto. Daniela Coti di Como. Buongiorno Daniela. Buongiorno, buongiorno a tutti e a chi ci ascolta. Allora, prima di parlare con te, magari ci ascoltiamo che cosa è successo nella storia il 12 di agosto, che magari ci vengono degli spunti interessanti per questo agosto fatto di vacanze intelligenti. Agosto 1845. Al Teatro San Carlo di Napoli avviene la prima dell'Alzira di Giuseppe Verdi. Finalmente qualcosa da fare per chi è rimasto in città. 12 agosto 1942. I bambini rimasti in città non riescono a dormire dall'emozione perché l'indomani c'è la prima del cartone animato Bambi. 12 agosto 1981 viene presentato il PC della IBM, un personal computer che sarà lo standard di riferimento negli anni 80 per tutti i modelli di PC. Per chi è costretto a rimanere in ufficio, comincia una nuova era. E per chi invece non è costretto a rimanere in ufficio davanti al PC, ma può muoversi, proseguiamo con il nostro viaggio. Firenze, lo sai, non è servita a cambiarla. La cosa che ha amato di più è stata l'aria. A Firenze, Museo degli Argenti a Palazzo Pitti, Vinum Nostrum, arte, scienza e miti del vino nelle città, nelle civiltà del Mediterraneo antico, fino al 15 maggio del 2011, quindi c'è tempo per andare a vederla. Dalla Mesopotamia alla nostra tavola, reperti originali, sculture, affreschi e mosaici, accompagnati da apparati multimediali e video, racconteranno la millenaria storia della vite e del vino. Telefono 055 29 48 83. Ma torniamo a noi e quindi torniamo a Como. Ciao Daniela, raccontaci del tuo agosto in città. Allora, beh, Como è una città fantastica anche ad agosto, ci sono turisti che vengono apposta, quindi non posso proprio lamentarmi. È una città che per fortuna adesso rimane molto viva, piena di gente, oltre a turisti anche gente che come me ha scelto di rimanere in città. Tu hai fatto vacanze prima, le farai più tardi? Ho fatto vacanze a giugno, mi sono goduta il mare quando ancora non era preso, affollatissimo da... Ed è una scelta che da qualche anno sto facendo e che posso fare e poi a settembre sì, mi ritaglierò qualche spazio, qualche gita, qualche weekend più lungo, ecco. C'è qualche mostra, qualcosa da vedere a Como? A Como si è appena conclusa la mostra di Rubens, famosissima, questa splendida cornice sul lago di Como. E si è conclusa quindi? Si è conclusa il 25 luglio, attorno alla fine di luglio. È sempre così da qualche anno, inizia a marzo e si concentra. Sì. Peccato, perché sarebbe stata un'occasione per chi... Perché a lui, ad agosto, perché tu avresti avuto tempo di andare a vedere. Sicuramente più tempo stando a casa. Però ecco, non mi sono persa. Giorni fa sul lago di Como, in un piccolo paesino, Vittorio Sgarbi ha tenuto una conferenza sul Caravaggio. Oh, che meraviglia! Sono state due ore splendide di un sacco di cose. Poi vabbè, Vittorio Sgarbi ovviamente lo conoscete, ha parlato benissimo e ha illustrato questo grande artista. Io purtroppo non ho visto la mostra a Roma e quindi è stato un modo così per passare una bella serata. E poi, come dicevi tu, andando in giro così, Vittorio Sgarbi ha soggiornato in quel periodo a Varenna, ha parlato di Varenna. Varenna è un'altra località sul lago, rimane sul ramo del lago di Lecco. È una bellissima città e mi ha dato appunto lo spunto per poterla visitare in questi giorni, tempo permettendo. Già. Perché la ricordo, sono stata qualche anno fa, ma penso che merita, e lui mi ha rinnovato questo ricordo. E questo per dire che da cosa nasce cosa. Certo. Ed è l'agosto che vivo, è un po' così, diciamo, alla giornata, anche perché prendo ovviamente molto più tempo per me, per le cose di casa, per rinnovare il guardaroba. Una cosa che a me piace tantissimo in questo periodo, mettere mano ai mobili, ai soprammobili e rinnovare, perché per me è un po' l'inizio di settembre, un po' come l'inizio dell'anno. Ah, tutto finisce quindi il 31 di agosto. L'anno non inizia il primo gennaio, per me è Capodanno, è tra poco e quindi sarà un retaggio così dell'anno scolastico che cominciava, che bisognava preparare la borsa, i quaderni, i pennarelli eccetera. Adesso ci sono altre cose da preparare, però l'entusiasmo è quello di rinnovamento, di cose nuove. Quindi la tua tecnica di sopravvivenza è di goderti questa fine d'anno. Sì, mi godo questa fine d'anno in previsione di... Poi caratterialmente sono un po' organizzativa, quindi sto pensando a cosa fare i primi di settembre. Amo tantissimo settembre, ottobre, per me sono dei mesi splendidi, poi a Como godibilissimi, perché il tempo finalmente normalmente ritorna sereno, con giornate non calde, limpide, ma terse. I colori sono spettacolari, è una cosa che amo particolarmente, e quindi diventa piacevole. Quindi ecco, questo per me è un po' il periodo dell'attesa, che di tutto qualcosa, ricomincia. Sì, di qualcosa di piacevole. Bene, allora sentiamo anche un ascoltatore. Abbiamo Luisa da Milano. Luisa? Sì, sono io, anche se adesso sono in campagna e magari sentirete i cani che abbaiano sul fondo. Bene, ecco, quindi sei in vacanza. L'esperienza di quando si sta ad agosto a Milano, non per propria scelta, per una motivazione validissima. Io qualche anno fa ho assistito una persona cara e quindi ero ben contenta di poterla assistere, però stare a Milano ad agosto è stato terribile, perché a differenza dell'ascoltatrice precedente, per me contano molto anche i rapporti umani. Non ci sono gli amici, non c'è il bar di riferimento, persino la Sormani chiude ad agosto, cioè c'erano delle cose alternative, che so, il museo archeologico era ancora aperto, eccetera, però il contatto umano con gli amici di tutti i giorni era completamente scomparso. Eh certo. Inventarsene degli altri, magari parlando con la vicina in tram, ho persino partecipato, e allora non ero ancora della terza età, a quelle gite fuori porta che organizzava il comune. Qualsiasi cosa andava bene pur di avere un contatto umano. Quindi, beh, quindi stare a Milano contro la propria volontà è veramente una sofferenza. Però può essere l'occasione per socializzare, dai. Sì, sì, ma io socializzo già tutto l'anno, perché proprio l'elemento umano, c'è meno gente per socializzare, è tutto molto, ma molto, ecco. Ci sono degli aspetti positivi, tipo, non so, tu vai al mercato di Viale Partignano e vedi tutto l'ONU lì rappresentato, perché sono solo le extracomunitarie che rimangono a Milano d'estate più o meno, insomma, grosso modo. Sì, però, beh, anche se ultimamente le cose sono un po' cambiate. Cioè, ecco, qualche anno fa era un po' così, però trovi tutto chiuso, vai in giro per la città, è una morte civile, come si dice. E secondo me la vecchia tradizione di fare Milano fuori porta, di agosto fuori porta, non è poi tanto sbagliata. Non è tanto sbagliata. Grazie mille Luisa, e allora buona campagna. Grazie, grazie. Ciao, ciao, ciao. Ma sentiamo anche Antonio, che ci vuole raccontare invece da Napoli la sua esperienza di un agosto in città. Ciao Antonio. Buongiorno. Buongiorno. Attenta, non è che vorrei fare il solito piagnisteo dei meridionali, ma dico, il mio intervento è venuto fuori da questa invidia profonda che ho almeno nutrito appena ascoltato il signore di Milano per la vacanza intelligente possibile, dei musei aperti, di tante mostre, cioè, perché a Napoli, questo lo voglio segnalare, insomma, i musei sono aperti nominalmente, perché per esempio lei va all'archeologico con un amico straniero e trova che a momenti oltre metà delle stanze sono chiuse al pubblico, e questo vale anche per Capodimonte, ma la cosa anche incredibile vale per chiese veramente famose, perché Napoli è piena d'arte, la San Lorenzo, chiesa di gotico flamboyant, dove lei sa che si incontrarono Boccaccio e Fiammetta, cioè, ma sono sempre chiuse, insomma è difficilissimo l'accesso. Insomma, questo poi, l'ironia per me è terribile, è che la nostra sindachessa parla del forum della cultura che avverrà naturalmente nel 2013, perché in Italia i programmi si fanno a lunga scadenza, sì, mentre al presente non si combina e non si provvede mai nulla. La ringrazio, mi scuso. Grazie, ma no, è stato utilissimo invece. Grazie mille Antonio. La ringrazio. Grazie. Beh, proseguiamo quindi con Como e proseguiamo con Daniela e il tuo agosto in città. Tu dicevi che hai questo ricordo delle vacanze appunto d'estate, fai l'insegnante? O? No, io mi occupo di tessuti per abbigliamento, che a Como è una cosa abbastanza, non dico normale, insomma, anni fa era piuttosto normale, adesso con la concorrenza che ovviamente abbiamo dai paesi dell'est è una realtà ridimensionata, però sempre molto importante. Certo. Quindi, sì, ci occupiamo di colori, di moda, di disegni. Ma quindi è un lavoro su tessuto. È un lavoro stagionale anche il tuo? È un lavoro o almeno che potrebbe sembrare stagionale. Potrebbe sembrare stagionale, in effetti lo è, perché poi occupandoci appunto di stampa, la stampa prevalentemente è una tecnica che usiamo per i tessuti estivi, e la produzione estiva si concentra poi da settembre a dicembre, che è il periodo in cui effettivamente si lavora molto di più, ecco. Però è un lavoro che ti tiene occupato tutto l'anno, perché tutto l'anno devi comunque presentare novità, presentare disegni, nuove coloriture, seguire le tendenze. No, è un lavoro creativo, sembra, sì, molto interessante. ovviamente come tutti i lavori è il lato ovviamente più noioso, più però più di routine, però insomma più di routine, no, però è un lavoro molto avvincente, bellissimo. Allora arrivano un sacco di messaggi al 349-238-6666 proprio su Como. Se venite a Como visitate anche Cantù, pioggia permettendo. Ah, caspita. Così ci sì. Scrive un ascoltatore di Cantù, credo, probabilmente. Poi ci dicono Como più la voce di Daniela uguale immagine poetica. Quindi stanno arrivando dei bellissimi messaggi su questa cosa. Oggi sarà un po' meno poetica con questa pioggia, devo dire la verità, anche se ha il suo fascino. Ma è un fascino che deve durare 24 ore, dico sempre, perché se dura di più diventa veramente noioso. Ma, esatto, lo so perché io sono del lago di Garda ed è la stessa cosa, il lago può diventare triste, sì. E invece mi dice, ad Alessandria festeggiamo il Capodanno alessandrino proprio il 31 agosto. Caspita! Con una bella notte bianca piena di musica e divertimenti. Veniteci, Federico da Alessandria. Vedi. Quindi esattamente quello che dicevi tu, finisce l'anno, forse per questo ricordo che abbiamo delle vacanze che finiscono, della scuola che ricominciava, che poi ai miei tempi ricominciava a ottobre, però comunque ho fatto anche qualche anno qui, appunto i primi di settembre si andava a scuola e questo era, da un lato certo finiva l'estate, finiva la libertà, ma dall'altro così ritrovavi i tuoi compagni, i tuoi amici, quello che diceva l'ascoltatrice di prima, i rapporti umani si riallacciavano ed era fantastico. Come fantastico adesso, io non vedo l'ora che rientrino tutti i miei amici, che mi parlino delle loro vacanze e di ti facciano che vedere hanno i fatto. Filmini ecco quelli magari foto. Li evito, devo dire, e sono carini, non me li faccio vedere, no, arriva ogni tanto qualche foto via mail, ecco, qualche foto così è simpatica. Agosto, tecniche di sopravvivenza. 800 24 00 24 per raccontarci delle vostre vacanze intelligenti in città o i vostri messaggi al 349 238 6666. Ne è arrivato uno molto bello. Salve, Paolo da Firenze. Lavoro tutto agosto sui bus pubblici come autista e amo ovviamente durante le fermate e gli stop guardare con altri occhi la mia Firenze e non solo. Quindi l'occasione di guardare con occhi diversi la propria città in agosto, quando magari tutto è più tranquillo, c'è meno gente in giro e riusciamo davvero a scoprire o a riscoprire angoli che magari durante il resto dell'anno non riusciamo a vedere. Ma proseguiamo con questo viaggio, appunto un viaggio ideale che stiamo facendo nelle città d'Italia. La città, appunto, come abbiamo detto, è il luogo ideale per soddisfare questa reale o presunta preparazione in fatto d'arte. Ma voi siete quelli che si informano prima di andare ad una mostra, anche solo per fare colpo? Come mai è qui? Oh, non potrei concepire di essere a Venezia senza dare un'occhiatina al Tintoretto, perché è il maestro che preferisco al mondo, cioè adoro la sua opera, ne vado pazzo. Era un profondissimo genio. Il più profondo, cioè le sue fulmine, sì, pennellate, i chiaroscuri, le esplosioni di colore, la sua capacità di controllare il gesto, nato nel 1519 solo per rimorire nel 1594, ma d'altronde è quello che capita a quasi tutti noi. Quindi lei apprezza veramente la sua opera? Come potrei non apprezzare un uomo che era basso di statura, ma che aveva una natura fiera e ostinata e che dipingeva al di fuori delle convenzioni accademiche della Venezia del XVI secolo. Lei che cosa fa, signor Berlino? Chiamami John. Sì, allora c'è chi ovviamente mangia addirittura un libro di storia dell'arte pur di fare colpo. Allora 800 24 00 24 per parlare con noi o i vostri sms al 349 238 6666. Tassista da una settimana, Milano in agosto è il mio nuovo ufficio ed è un bellissimo ufficio. Quindi la città in agosto, come la state vivendo? Ma abbiamo parlato di mostre, di musei, di cosa visitare appunto nella città in cui vi trovate. C'è anche la tecnologia che ci viene in soccorso. Molti ormai hanno l'iPhone o hanno quello che si chiama lo smartphone. Esistono una serie di applicazioni che si possono scaricare per capire che cosa c'è da fare in giro. E oggi ne parliamo con Orazio Spoto, un ideatore di applicazioni per capire quali sono quelle di cui possiamo fare a meno e quelle invece che dobbiamo assolutamente avere sul nostro telefonino. Ciao Orazio. Ciao Morena, ciao a tutti. Ciao, allora raccontaci un po' di queste applicazioni. Ci sono tantissime applicazioni oggi sul mercato, ma ce ne sono alcune che sono pensate apposta per chi decide o deve rimanere in città ad agosto. Diciamo che il modo migliore per distrarsi è proprio quello di vedere perché non si parte, e sicuramente una buona idea può essere utilizzare le applicazioni legate al traffico. La più importante e la più famosa è quella dell'autostrada, e quindi anche quella tra virgolette ufficiale, che ci dice come partire intelligentemente. Magari scaricando questa applicazione scopriremo che tutte le strade sono intasate, e quindi eviteremo di rimpiangere di non essere partiti. Abbiamo anzi. Fatto bene a non partire, ok. Esatto. Oppure... Beh, e poi se ci sono delle ultime titubanze sul fatto di partire o di non partire, si può per esempio chiedere al polpo Paul, quello che poi ha fatto tanto parlare di sé nei mondiali di qualche settimana fa, quando magari abbiamo un dubbio e non vogliamo basarci su criteri scientifici tecnologici, possiamo affidarci al caso, e la versione per iPhone del nostro amico Polpo, che poi appunto non so se lo sapete ma è comunque italiano, ci può sicuramente dare una mano a confermare la nostra decisione di non partire. Aha, bene, ma io ho anche letto delle cose incredibili su delle applicazioni. Ci sono delle applicazioni, adesso forse non perché è rimasto in città, ma ci sono delle applicazioni che servono ai fedifraghi, cioè quelle che, ripropongono dei rumori, magari, non so, tu fingi di essere andato all'asilo a prendere il figlio, in realtà sei partito, sei andato a fare un giro in barca, e così fai sentire sotto il rumore dei bambini che parlano. È vero? Sì, assolutamente sì. Diciamo che gli smartphone ci aiutano a fare delle versioni riviste aggiornate di quando la moglie è in vacanza. Esistono applicazioni, la più famosa è Pallaudio, che permettono effettivamente di creare dei finti sfondi sonori, e quindi possono aiutarci nel caso in cui vogliamo far credere di essere da tutt'altra parte. Senti Orazio, poi, hai detto aiutarci. No. Aiutarci, esatto, però attenzione. Ah, ok, parliamo degli altri ovviamente. Sì, parlo sempre degli altri. È ovvio. Senti, ma invece per chi è rimasto in città e vuole sapere se ci sono, non so, dei supermercati aperti o il cinema più vicino, anche delle informazioni per cosa fare la sera, cioè ci sono applicazioni di questo genere? Ecco, per fortuna ce ne sono veramente tante. Sicuramente se si decide di non uscire neanche, non solo si rimane in città ma si resta in casa, sicuramente un'ottima idea può essere scaricare l'applicazione di TV Sorrisi e Canzoni, che appunto dà la guida minuto per minuto dei programmi televisivi anche d'estate. Se invece si vuole uscire e quindi si vuole prendere quel po' di aria fresca che magari può esserci la sera, una delle applicazioni possono essere sicuramente due, ne andrei a definire. Una è Aperto Domenica, che ci dice i giorni di apertura non solo di domenica, come dice giustamente il nome, ma anche nei giorni festivi e in questo periodo di ferie in cui chiaramente tante realtà possono essere chiuse. Oppure se ci vogliamo anche divertire e non solo fare la spesa, possiamo utilizzare applicazioni come Around Me, che ci permettono di scoprire quali sono i luoghi di divertimento e di intrattenimento più vicini a noi utilizzando il GPS, che è questo sistema ormai integrato nella maggior parte dei telefoni e che appunto permette di selezionare in base dei criteri di vicinanza, è come se avessimo una bussola con noi, quelli che sono gli eventi, i luoghi più importanti e significativi. Bene, grazie mille Orazio. Allora, grazie, tutti pronti a, te. A scaricare le applicazioni per questo agosto in città. Grazie. Grazie, a ciao, presto. Ciao, a presto. Stop. Agosto, tecniche di sopravvivenza. Stiamo parlando dell'agosto in città e delle vacanze intelligenti da fare in città. Abbiamo fatto il nostro viaggio ideale nelle città italiane e adesso, prima di lasciarvi con le nostre tecniche di sopravvivenza, vorremmo trasferirci un pochino più al sud. Vieni a ballare in Puglia, Puglia, Puglia, tremulo come una foglia, foglia, foglia. Tieni la testa alta quando passi vicino alla gru, perché può capitare che si stacchi e venga giù. Ecco, in Puglia non si va solo a ballare, no? Perché poi tutti vanno alla Notte della Taranta, ma c'è anche da andare a vedere una mostra a Bari. L'arte civile di Yannis Kounellis, artista greco, italiano di adozione, in mostra a Bari al Teatro Margherita e in Piazza del Ferrarese. Una mostra promossa dal Comune di Bari in collaborazione con Vito Labarile e Anna Maria Maggi. Ferro e carbone per mettere in scena la condizione dell'uomo moderno. Ma in quali condizioni siete voi adesso? Ecco le nostre tecniche di sopravvivenza tra mostre e musei. 1. Evita di andare tutti i giorni al Museo Egizio anche se è l'unico aperto. Non aspettare che le mummie ti riconoscano. 2. Trattieniti dall'esordire con "Potevo farlo anch'io" di fronte ad un Picasso. 3. Se lei ti ha detto "adoro Ligabue", prima di intonare "Certe notti", assicurati che si riferisse a Luciano e non ad Antonio. 4. Il fatto che in giro non ci sia nulla di interessante non è un buon motivo per farle vedere solo la tua collezione di farfalle. 5. Se ti fingi un esperto, attento a non fare confusione. Van Gogh si è tagliato l'orecchio, quello sordo era Beethoven. Arrivano i vostri messaggi al 349-238-6666 e c'è che mi dice anche: è assurdo andare a una mostra senza essere informati su quello che si fa a vedere, su quello che si va a vedere, tutto diventa noioso. Oppure altra città, agosto a Pavia, una desolazione, pochi negozi aperti che ci costringono ad andare nei soliti centri commerciali. Ciao Sandra da Pavia. Quindi l'agosto in città può diventare noioso, interessante, insomma dipende dal punto di vista dal quale lo si guarda. Oggi abbiamo avuto ospite con noi in radio e è ancora qua con noi l'ascoltatrice che si è prenotata la settimana scorsa per raccontarci del suo agosto in città. Daniela ci ha raccontato appunto che lei a Como utilizza questo tempo per vivere insomma l'attesa dell'anno nuovo, no? Di ricaricarsi le batterie in attesa che a settembre tutto ricominci. Ma per esempio adesso questi altri 20 giorni d'agosto che cosa hai in previsione di fare? Sicuramente appunto la visita a Varenna, perché appena il tempo si stabilizza. Poi a proposito di prepararsi o meno alle mostre, siccome a settembre partecipo al Festival della Letteratura a Mantova. Bellissimo. Volevo andare un po' preparata già. Lì mi si apre un mondo perché è un mondo che non conosco e che insomma devo in qualche modo così, mi devo accostare in qualche modo e non so come perché ovviamente c'è tanto e beh ma ce quindi... la farai, agosto ti dà del tempo, hai sì, ancora 20 sì, giorni sì, esatto, esatto. Grazie mille di essere stata con noi. Grazie a voi, grazie, buon Ferragosto. Grazie. Ciao. Appunto a proposito di Ferragosto, domani è venerdì 13, siete pronti? Non lo dico perché sono superstiziosa, ma perché parleremo di Ferragosto. Sicuri di essere pronti per questo? Ringrazio Vittoria Mussini e Laura Faggini in redazione e Paolo Corleoni in regia. Ciao! Fine della trasmissione. Ma io volevo soltanto... Fine della trasmissione!